nave ogni stanza che tu spalancherai, che tu spalancherai al sole. Nel soggiorno mi siedo sul divano e tremo pensandoti. Ho realizzato adesso che stanotte non è stato un sogno. Mi alzo trafelato e corro a svegliarti. Vivevo solo di ricordi e ineluttabili rimpianti che tu cancellerai, che tu cancellerai. Ero privo di speranza, chiudevo a chiave ogni stanza che tu spalancherai, che tu spalancherai. Ero privo di risorse, ero privo di risorse, ero privo di risorse, senza, senza, senza di te. Vivevo solo di ricordi e ineluttabili rimpianti che tu cancellerai, che tu cancellerai. Chiudevo a chiave ogni stanza che tu spalancherai, che tu spalancherai. Ero privo di risorse, chiudevo a chiave le mie porte che tu spalancherai. Al sole.